Capitolo 18. Bogdanov rimane in piedi accanto alla porta. Non si toglie il cappello né la sciarpa, per essere meno riconoscibile. Nell'aula ci sono pochi studenti, pronti a cogliere ogni parola del candidato e ogni inflessione nelle domande del professore, che ha una faccia di pietra ed è rinomato per la sua imparzialità. Nikolaj Aleksandrovich Semashko non assomiglia più al militante che 20 anni fa si fece arrestare mentre cambiava banconote rubate. Oggi è commissario della salute pubblica e titolare della cattedra di igiene sociale dell'Università di Mosca. Un uomo rispettabile e un rivoluzionario vittorioso. Uno di quelli che hanno spronato il ronzino della storia fino a farlo schiantare e sulla sua carcassa hanno edificato il socialismo. Baffi e pizzetto grigi, le borse sotto gli occhi chiari e la calvizie incipiente rivelano l'età. Anche lui ha passato i 50. Bogdanov è più vecchio di un anno, eppure sembra il più giovane, come sempre gli capita con i reduci dell'epopea della grande rapina. Semashko, invece, assomiglia a un suo professore dei tempi dell'università, un liberale zarista, la specie peggiore. Contestarlo gli costò l'espulsione dall'Ateneo. Non che questo abbia fatto una grossa differenza nella sua vita errante, sempre sotto il controllo dell'Ocrana. Osserva il ragazzo seduto di fronte al professore. Può vederne la nuca, le spalle strette, e ascoltare il suono della voce un po' rauca, ancora impastata di adolescenza, mentre risponde alla domanda. Orgoglio e apprensione si mescolano, un'emozione difficile da decifrare. Tutto ciò che hanno fatto lo hanno fatto per loro, per la generazione successiva, per renderli padroni del proprio destino più di quanto chiunque sia mai stato in precedenza. Per questo quel ragazzo non contesterà mai il suo professore. Come fai a contestare un rivoluzionario per quanto sia in cattedra? Non è stato anche il destino di Aleksandr Malinovskij, detto Bogdanov? Quando la rivoluzione trionfa, contro cosa dovresti scagliarti? Contro i padri della rivoluzione? Sulla stella rossa del suo romanzo, di conflitti generazionali non c'era più l'ombra. Per il semplice fatto che non c'erano più genitori da contestare, dato che la famiglia borghese era stata superata e i bambini crescevano insieme, educati al collettivismo. Non appena il candidato smette di parlare, il professore formula una nuova domanda. Lo studente si concede un paio di secondi per raccogliere le idee e mettere a fuoco la risposta. Quindi riprende a parlare spedito. Bogdanov tende l'orecchio, ma è troppo distante, coglie soltanto mezze frasi. Se è vero che la famiglia è un sistema contraddittorio destinato alla crisi, è altrettanto vero che un conflitto tra le generazioni ci sarà sempre, anche dopo 1000 rivoluzioni. Negarlo significherebbe negare la dialettica della vita. Poco importa che l'attrito sia tra genitori e figli, sarà sempre tra una visione consolidata e una nuova, tra la vecchia organizzazione e una migliore, tra il vecchio equilibrio e quello a venire. Danny mette in discussione il primato della specie umana, contesta l'idea che si possa imporre il destino ad altri esseri senzienti in nome di un bene superiore. Gli umani potrebbero essere i conigli dei nakuniani. Ma Danny viene da un pianeta lontano, cioè dalle pagine di una trilogia letteraria, e non fa che portare alle estreme conseguenze ciò che lui stesso ha scritto. Di più, Danny viene da 200 anni nel futuro ed è lì a suggerire che ci sarà sempre conflitto. Che l'unica società pacificata è quella morta e il solo equilibrio possibile è quello dinamico e precario tra umanità e ambiente. Questo, in effetti, dice il marxismo. Nel divenire del mondo, presto o tardi tutto viene superato, anche il marxismo stesso. Ma le vestali del dogma non hanno mai potuto accettarlo. Il ragazzo ha finito. Semashko continua a scrutarlo, quindi prende a scrivere mentre comunica a voce l'esito dell'esame. Infine allunga il braccio sopra la cattedra e stringe la mano del giovane. Il ragazzo ringrazia e si incammina verso l'uscita. Quando è a metà dell'aula, il professore lo richiama. Malinovskij? Il ragazzo si volta. Senza mutare espressione, Semashko dice la frase che farebbe meglio a non dire. «Salutatemi tanto a vostro padre!» Il ragazzo annuisce imbarazzato. Un mormorio serpeggia tra i banchi. Bogdanov sgattaiola fuori dall'aula per primo. Toglie sciarpa e cappello, così che il ragazzo lo riconosca appena varcata la soglia. Ma quando appare, a testa bassa, mortificato, deve chiamarlo per farsi notare. «Kotick!» Come lo vede, il ragazzo gli va incontro. «Complimenti!» dice Bogdanov. «Hai fatto un bell'esame!» Il ragazzo non pare convinto. «Peccato che adesso tutti pensino che io abbia ricevuto un trattamento di favore!» Bogdanov cerca gli occhi del figlio, appena umidi e così simili ai suoi. «Tu credi di averlo avuto?» Un'alzata di spalle. «Non lo so!» fa un cenno in direzione dell'aula. «Sei venuto per me o per lui?» «Per entrambi, a dire il vero. Se può consolarti, conosco Semashko da un quarto di secolo e potrei scommettere che non ti ha favorito in alcun modo per il cognome che porti.» «Sì, ma i miei compagni non lo sanno», bofonchia il ragazzo. «Mi odiano per questo.» «Conosci il proverbio? Non puoi cucire bottoni sulla bocca del vicino, ma puoi infischiartene di cosa ne esce.» «Il finale l'hai aggiunto tu», obietta Kotick. «Sì», ammette Bogdanov. «C'è più gusto. Vieni, sediamoci.» Si incamminano nell'ampio corridoio, fino a raggiungere la finestra, dalla quale entra la luce bianca del mattino. Il cielo preannuncia la prima neve. Eppure pare ieri che era ancora tarda estate. Siedono su una panca, uno accanto all'altro. «Qual è il problema?» chiede Bogdanov. Il ragazzo sospira. «Dicono che sono entrato all'università grazie a te.» «Ma non è vero», obietta Bogdanov. Il ragazzo storce la bocca. «Vallo a dire a loro.» «Mi crederebbero?» «Certo che no.» «Allora risparmierò il fiato», conclude Bogdanov, «e terrò salda la verità. E la verità è che io non ho mai messo il becco nelle tue scelte. Sei cresciuto libero. Non hai avuto un padre padrone, come gli altri.» Il ragazzo scuote il capo. «Non è questo.» «Che cosa allora?» insiste lui, ma non ottenendo risposta prosegue. «Sei nato in un momento critico, Kotick, lo stesso che molti di noi hanno vissuto. Non avevo nulla da offrirti. Poi c'è stata la guerra, ed è stato anche peggio. Se sei qui, all'università non lo devi a me, ma alla rivoluzione. Questo evento imperfetto, storto, perfino sbagliato, che stiamo per celebrare, è la cosa migliore uscita dalla più grande guerra di tutti i tempi. Non ci piace, ma è quello che abbiamo, ed è un fatto unico.» Il ragazzo esita. È troppo giovane per trovare il modo giusto di dire ciò che intende. Quando infine ci prova, gli esce una frase troppo secca per non suonare amara. «Mi considerano un privilegiato perché sono tuo figlio.» Bogdanov accusa il colpo. «È una prospettiva che non ha mai considerato.» «Portare il mio cognome non è certo un privilegio, al contrario», dice convinto, ma la replica suona come una giustificazione, un tentativo goffo di smarcarsi. Il ragazzo non aggiunge altro. La sua esasperazione vira in tristezza, come se implodesse invece di esplodere, invece di rinfacciare ciò che non è pronto a rinfacciare. Bogdanov gli appoggia una mano sulla spalla. Il ragazzo si irrigidisce. Non sono più abituati a toccarsi da quando, ancora bambino, Kotick viveva a Parigi con sua madre. Adesso è troppo tardi per recuperare. Meglio affidarsi alle parole. «Ci farebbe piacere che venissi a pranzo da noi domenica. Natalia vuole vederti e complimentarsi con te per l'esame.» «È soltanto un esame», si schermisce il ragazzo. «Devo darne ancora talmente tanti.» Bogdanov assume un tono complice. «Lo sai quanto ci tiene. Ti vuole bene. Vieni, per favore.» «Adesso devo andare», dice il Kotick. «Devo riportare i libri in biblioteca.» «Certo, certo», conviene Bogdanov, mentre entrambi si alzano e tornano sui propri passi. «Io aspetto che Semashko finisca. Devo parlargli di una questione dell'istituto.» Si stringono la mano, indecisi se abbracciarsi, quindi il ragazzo raggiunge le scale. «Kotick!» lo richiama Bogdanov, ma quando il figlio si volta non ha niente da dirgli. Voleva soltanto vederlo ancora in faccia. «A domenica!» Il ragazzo gli rivolge un ultimo saluto e scende le scale. Bogdanov seguita a fissare il punto esatto in cui Kotick si è trovato prima di sparire alla vista, come se avesse lasciato un'impronta nell'aria. E anche se presto lo spazio viene attraversato dal via vai degli studenti, lui rimane incantato a ricordare. Il sole che entrava dalla piccola finestra dell'appartamento parigino illuminava il viso del neonato. Era così piccolo che lo reggeva sull'avambraccio. Il suo pianto era debole ma costante, come il miagolio di un gattino. Da allora in famiglia lo chiamano Kotick. Accanto a lui, il viso della madre provata dal travaglio. «Devi essere lì, Sasha, insieme a lei e al bambino!» La voce di Natalia gli suggerì cos'era giusto: provvedere alla madre e al piccolo, anche se non sarebbe stato facile in una vita da esuli zingari bolscevichi. Avrebbe riconosciuto il bambino, gli avrebbe dato il suo cognome. Una sera sentì Natalia piangere in cucina e si ritrasse, fingendo di non esserci, per non metterla a disagio. Erano stati genitori una volta, prima di sposarsi, per meno di 2 mesi. Il bambino era morto all'improvviso, nel sonno. L'incubo di quella notte non aveva mai smesso di perseguitarla. Quel giorno del 1909, a Parigi, quando le aveva annunciato la gravidanza della compagna Anfusa Ivanovna Smirnova, doveva essersi sentita morire. Era un inverno gelido, senza soldi per riscaldarsi, e Natalia aveva ceduto alla puerpera perfino le razioni di carbone. Anfusa era cagionevole e affrontare il freddo i primi mesi di gravidanza poteva costarle caro. Natalia desiderava che quella vita nascesse, perché era quanto di più vicino a lei non aveva avuto. Il pensiero spaventò Bogdanov e al tempo stesso lo avvinse per sempre, senza che venisse meno la passione per Anfusa. Il bambino sarebbe nato d'estate, ma prima di allora molte cose si dovevano consumare e la profezia che Natalia gli aveva fatto a Cuoccola 2 anni prima si sarebbe avverata. La sorte dell'eretico era segnata. Lenin aveva già firmato la condanna. A marzo diede alle stampe Materialismo ed Empiriocriticismo, il frutto delle sue letture filosofiche. Se la realtà è un flusso di esperienze organizzate dalla mente, allora è la mente a produrre la realtà, che quindi non esiste indipendentemente da noi. Ciò la riduce a un'emanazione del pensiero. Ma questo è il caposaldo dell'idealismo, tutto il contrario del materialismo, che invece si fonda sull'oggettività. Dopo quella di Plekhanov, ecco la seconda scomunica. Voi, banda di intellettuali nel vostro bell'esilio mediterraneo, voi avete intrapreso la via dell'idealismo, del soggettivismo, di Dio. Voi non siete materialisti dialettici, non siete marxisti. Una granata scagliata sulla loro storia. Non era perdere la stima di Lenin o di deluderlo, né il fatto che Lenin rendesse in caricatura le sue teorie, ma un simile anatema stabiliva un precedente. Questo allora lo inquietò, perché negarlo? Non soltanto per le conseguenze immediate su di sé, ma anche per la sensazione di aver varcato una soglia, un punto di non ritorno, oltre il quale personaggi meno gentiluomini di Lenin si contendono ancora la corrispondenza tra l'ideologia e la storia, lottando in bilico sul baratro. In seguito Lenin sconfessò la scuola che Bogdanov, Gorky e Lunacharsky stavano mettendo in piedi a Capri, poiché aveva una linea politica e ideologica alternativa. Dunque, il centro bolscevico non avrebbe stanziato i finanziamenti per mandare a Capri gli studenti operai dalla Russia. Bogdanov si aspettava la guerra aperta, ma quel che più lo amareggiò fu che Lenin si arrogò il diritto di decidere come usare i soldi della rapina di Tiflis. Quel colpo era stato approvato da tutti, quando erano ancora in Finlandia e tutti ne avevano pagato le conseguenze. Camus era in galera per questo. Al di là delle divergenze politiche, non era giusto che soltanto alcuni decidessero come utilizzare ciò che restava del malloppo. Lo scontro più acceso avvenne nella casa delle associazioni del terzo, in Rue de Bretagne. Lì, sotto le travi del soffitto basso, Bogdanov pronunciò l'arringa difensiva, sapendo che non gli avrebbe evitato la condanna, ma almeno sarebbe rimasta agli atti. Disse che quello di Lenin era un partito padre, un partito che si rivolgeva alla classe operaia per dirigerla, come un padre premuroso con i figli, ma non per educarla. E le poche volte che ci provava, era un vecchio maestro che trasmette agli scolari un sapere in forma di fede e non di conoscenza collettiva. Così non sarebbe nata una cultura proletaria in grado di spazzare via quella borghese, perché i lavoratori non avevano una visione del mondo sistematica, un pensiero organizzato che desse più forza a ciò che già sapevano. Il partito li impegnava su questioni secondarie, come la diatriba se partecipare o no alla Duma, oppure li eccitava con iniezioni di coscienza di classe, nella versione più compatibile alla sopravvivenza del partito stesso. Ciò che gli eretici proponevano, una rivoluzione culturale, formare degli intellettuali operai che fossero scrittori, artisti, scienziati, ingegneri, finanche immaginare di colmare con l'umanità lo spazio di Dio, poteva essere un grande azzardo, ma era pur sempre qualcosa. Lunacharsky aveva ben detto: «Forse noi ci sbagliamo, ma cerchiamo». Accontentarsi del dogma, trasformare i testi di Marx in una Bibbia e farlo paradossalmente in nome dell'illuminismo significava arrendersi a un destino che non sarebbe mai stato quello di Bogdanov. Ad accrescere la delusione c'era poi la manovra politica che a malapena si nascondeva dietro quel gran parlare di scuola e partito. Lenin intendeva ricucire la frattura con Plekhanov, eliminando con una sola mossa i menscevichi di destra e i bolscevichi di sinistra, per ritrovarsi al centro con lui, a compattare il Partito Socialdemocratico. La sentenza non si era fatta attendere. Bogdanov era stato espulso dalla redazione del Proletari e il centro bolscevico aveva declinato ogni responsabilità per le sue azioni. Stessa sorte era toccata a Krasin, un altro che a buon diritto avrebbe avuto da ridire sull'uso dei fondi di Tiflis. Così, nella tarda primavera di quel 1909, Bogdanov si era ritrovato con un figlio in arrivo, senza il lavoro al giornale e senza più accesso ai fondi del centro. Nonostante il successo del suo primo romanzo, Stella Rossa, i diritti d'autore erano poca cosa. Poteva ritenersi fortunato che lo facessero ancora vivere nel domicilio comune degli esuli russi, sopra una vecchia locanda, dove l'aria era ormai irrespirabile. Kotick nacque a luglio. Pochi mesi dopo nacque Vpered. Se dovevano essere una fazione, almeno che avessero un nome e un loro giornale. Possibilmente un nome che li proiettasse in avanti, dovunque potessero arrivare. L'uomo che Bogdanov vede uscire dall'aula, con la cartella sotto braccio, è sempre rimasto fedele a Lenin. Eppure allora non dimostrò alcun astio verso di lui o gli altri vperedisti. Semashko non è mai stato un uomo di sentimenti troppo forti. È uno che bada al sodo. Se Bogdanov gli sottoponesse il problema del disagio di Kotick, la risposta sarebbe la semplice enunciazione di un fatto, la premessa di un sillogismo monco, qualcosa come: per la prima volta nella storia i figli dei contadini e degli operai vanno all'università. Sì, direbbe proprio qualcosa del genere. Cos'altro c'è da aggiungere? Di fronte a quella rivoluzione, cosa possono rappresentare le inquietudini del singolo? Semashko lo riconosce subito. Bogdanov ricambia il saluto e gli va incontro, deciso a non parlargli né di Kotick né dei tempi andati, ma di conigli.